Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo, buonasera a tutti, questo è Rockway Live, chiaramente Michele Tosoni in regia e partiamo questo nuovo concerto, finalmente dopo un po' di tempo è ritornato da noi Luca Gemma. Buonasera Luca. Ciao, buonasera a voi. Grazie di aver partecipato a questa trasmissione, a questo evento, perché bisogna presentare il tuo nuovo album, Luca, è quello importante. Eh sì, è importante. È importante, il tuo terzo lavoro. Il mio terzo lavoro da solo. Da solo, sì. Solista, perché ricordiamo che Luca faceva parte di un gruppo che io reputo molto importante negli anni 80, erano i Rosso Maltese. Sì, un po' più in là, anni 90. Anni 80, fine anni 80, inizio anni 90. Sì. Cosa si ispirava all'epoca nei Rosso Maltese, Luca? Bene, il Rosso Maltese internamente si respirava un'aria molto affollata perché eravamo in tanti. In tanti, tanti concerti dappertutto. Tantissimi concerti, per cui giravamo moltissimo per tutta Italia con questo nostro furgone pieno di strumenti e pieno di noi anche, perché appunto lo riempivamo in tutti gli ordini di posti. E giravamo tantissimo e c'era un'aria... Bella. Sì, molto divertente, molto, molto live. È stata un po' una grande palestra per, esattamente, è stata una grande sicuramente palestra per me e per tutti noi. Quindi un discorso con i Rosso Maltese, poi lentamente ma progressivamente il discorso tuo da solista. Sì, c'è stata una pausa in mezzo un po' lunghetta, diciamo, tra la fine dell'esperienza con i Rosso Maltese, che è stata nel 98, e poi da lì sì, ho cominciato a scrivere per conto mio, e ho cominciato a pensare anche che cosa scrivere, che cosa veniva fuori, e a cercare i musicisti con cui suonare le nuove cose. Quindi piano piano questa cosa ha preso forma fino a un primo singolo che nel 2003, sì, che portava il mio nome, si chiamava Luca, fatto con la CGD, e poi sono passato però invece al chilometraggio degli album, insomma. E quindi ho fatto 2004 Saluti da Venus, che è stato il mio primo, Tecniche di illuminazione nel 2007, e adesso eccoci qua. Ecco, da Tecniche di illuminazione nel 2007 c'è un piccolo salto, c'è un salto, ma non perché sia un salto vero e proprio, perché c'è una trasformazione, una direzione un po' diversa che hai preso in questo album. Abbiamo parlato a microfoni spenti, è più solare, più pieno di ritmo, più pieno di tante altre cose. Cioè, meno cantautorale, anche se l'album precedente era molto bello, ma era cantautorale, nel senso positivo del termine. Sì, sì, sì. È stata un po' una cosa ponderata, nel senso, dopo Tecniche di illuminazione, l'idea che avevo in mente era proprio questa, di cercare di fare qualcosa di nuovo, un po' meno cantautorale. Soprattutto mi interessava, scrivendo i nuovi pezzi, volevo cercare dei pezzi che io potessi cantare meglio di quanto avessi fatto, quindi insomma dove la mia voce suonasse meglio. Quindi per questo motivo è stato un procedimento piuttosto lungo, buttato via anche un sacco di cose che invece rientravano un po' in canzoni che avevo già scritto, e ho cercato questa nuova strada, appunto partendo un po' dal suono della voce, e strada che poi si è sviluppata così, riprendendo un po' i miei gusti che non avevo mai abbandonato, che anche della musica soul, della musica, certo, rhythm blues, eccetera. E poi grazie alla produzione di Ray Tarantino, che voi conoscete, certo, che è venuto qua da noi, ha fatto una bellissima presentazione, una bellissima evoluzione sonora, se mi può, permettere me lo immagino, io non l'ho sentito, ma esuberante, sì, sì. E con lui alla produzione siamo riusciti a portare il disco in questa direzione, che appunto è un po' più carnale, un po' più ritmica. A me piace molto il rock quando fa muovere, anche fa ballare. Sono appassionato di pezzi degli Stones con i riffettoni molto, certo, danzerecci, eccetera. E quindi l'idea era proprio questa: trovare qualcosa di vocalmente più interessante per me come cantante, e qualcosa di più corporeo. Sì, esattamente, tu hai detto anche: volevo trovare quello spirito sereno malinconico tipico del folk, col suo retrogusto venato di soul. Questo è importante, venato di soul, quindi di movimento più o meno. Sì, sì, sì, esatto, perché poi il soul è chiaro, come ben sai, è una musica afroamericana, certo, e quindi c'è tutto un DNA che un viso pallido come me non può raggiungere. Io però sono molto appassionato anche di di quei cantanti appunto pallidi come me, che si sono appropriati del White Salt alla Paul Weller, eccetera, quell'approccio lì, quindi ovviamente un po' meno caldo, meno furente, perché è veramente una questione culturale, però è quello, sì, il folk, quindi le ballad acustiche venate di questa cosa, okay. Un po' più di pancia, ecco. Benissimo. E andiamo a un'altra cosa, devo chiederti il folkadelic, cioè questa coesione tra il folk e questo movimento, questo ritmo, questo roots, è vero che è così il discorso? Mm-hmm. Sì, no. Sono i due, folkadelic è proprio la crasi di queste folk e la parte che io chiamo psichedelica, perché i pezzi nascono così, con questo spirito piuttosto tranquillo, chitarra e voce. Mentre invece nel lavoro di produzione con Ray Tarantino abbiamo poi man mano, ma anche già un po' in scrittura, si vedeva che il suono e la scrittura pigliava questa piega anche più sporca, un po' più sognante, sporca, da una parte più sporca, più roots, dall'altra un po' più dilatata e sognante, e si è inserita in questo contesto appunto più tranquillo, certo, delle canzoni acustiche, si è inserita questa parte invece psichedelica, e da lì è nato Folkadelic. Non abbiamo una telefonata? No, più tardi allora. Dovrebbe arrivare una telefonata. Ok, andiamo. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Sentiamo il primo pezzo, cosa dici? Sì, va bene. Benissimo. Abbiamo scelto la traccia, ti ricordi che traccia? Abbiamo dal disco, dici, no? Dal disco. Abbiamo scelto una traccia che secondo me rappresenta proprio molto bene questa intersezione tra il folk e lo psichedelico, perché ha tutta una parte iniziale monocorde, cioè proprio su un accordo, che è la parte più tranquilla. Perfetto. E un'esplosione finale diversa, si chiama Anima Antiproiettile. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Amore che fuggi, amore che vai, qualcosa distruggi, qualcosa mi dai, bellezza che appari, più bella che mai, mi lasci il profumo. Io seguo la scia. Stavolta mi perdo, è meglio così. Trovo un albergo, mi fermerò lì, le 6 di mattina, l'amore lo sa, qualcosa distrugge, qualcosa mi dà. Voglio un'anima antiproiettile per restare qui, con questo tempo che è inesorabile, mi prende e mi porta con sé, mi porta via. e voglio un'anima antiproiettile, io per restare qui, e voglio un ritmo lento e ballabile, mi prende e mi porta con sé, mi porta via. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, la bellezza di questa la descrizione, perché lui, tu descrivi pezzo dopo pezzo, e adesso me lo descrivi visto che ci siamo. Io ho già letto il tuo commento, però lo voglio dal vivo adesso in questo momento. Sì, la descrizione di questo pezzo è, l'ho fatta quasi unicamente sul significato del testo, sull'anima antiproiettile, perché io sono... penso che sia la necessità in certi casi di ipersensibilità verso il mondo esterno, la possibilità quindi di sentirsi molto fragili o feriti, e bisogna correre ai ripari, cioè quindi ogni tanto serve un giubbotto antiproiettile per la parte più intima, la parte e conosco io appunto, una cosa che mi nasce molto anche dall'osservazione, nel senso, io non sono una persona che si ritiene ipersensibile e quindi diciamo così facile da ferire, ne conosco però molte e vedo che e mi affascinano molto anche, e vedo che hanno questa necessità di conservare come in un angolo la propria parte più intima, più fragile, proprio per mantenerla integra e pura, e questa cosa mi piace molto, è una sensazione che provo anch'io delle volte, per cui il significato è proprio questo, ogni tanto serve un giubbotto a prova di proiettile da mettersi, certo, sull'anima invece che sul corpo. Questo è lo testo, e musicalmente come l'abbiamo sviluppato questo pezzo? Guarda, questo pezzo è nato proprio durante il lavoro di preproduzione con Ray, per cui è nato improvvisando da un suo giro di chitarra, questa cosa che resta per tutto il tempo su uno stesso accordo, su questo sol minore, da cui si è sviluppata una melodia e con l'idea proprio, man mano che andava avanti, di dividerlo e di separarlo proprio in due tronconi. Non è la classica canzone pop in cui c'è il ritornello che si ripete, è un serpentone lungo su un accordo che alla fine esplode in un modo abbastanza inaspettato, diventa questo roots reggae, sì, molto, e anche molto rock, molto sì, potente, molto potente, in cui, soprattutto nella fine che si sviluppa, esatto, finalmente cambia anche l'armonia, chiaro, entrano nuovi accordi, una nuova melodia, e il pezzo prende proprio una sua piega così anche dura, sì, chiaramente tu hai detto pomposa, pesante alla fine, sì, è sì, giusto sì, che sia così, sì sì sì, la parte lieve iniziale alla fine esplode bene. Allora salutiamo un momento il nostro staff, quindi Michele Tosoni in regia, Roberto Bardi che ha curato le telecamere, la nostra redazione, sai, abbiamo una redazione tutta femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci seguono sempre. Ah, piacere. Le salutiamo. E Agostino che cura le fotografie. E stasera abbiamo Luca Gemma, ragazzi, cioè mica una cosa da niente, è importante, importantissima. Abbiamo scelto un altro pezzo prima di cominciare la nostra cavalcata live. Qual è l'altro pezzo che tu hai scelto? Abbiamo scelto un pezzo che, come si dice in gergo, la traccia numero 3. La traccia numero 3, esattamente. Che si chiama Killer, è un pezzo dall'atmosfera folk jazz. Che non c'entra niente con quello dei Van de Graaff Generators, no? No. No, assolutamente. Peter Emmy non c'entra. No. Assolutamente non c'entra. Ok, andiamo col Killer. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Stammi lontano, killer, bye bye, io non perdono, aspetto qui, ancora un po', guarda bene il mio viso, a tagliarmi in due la faccia sarà il mio sorriso. Chi l'è di cuori o il tuo lavoro? Rubi, uccidi i sogni d'oro. Io resto qui ancora un po', sono certo che il cielo saprà dirmi dove è andato il mio amore più vero. Una festa sul tetto di una casa, la luna che illumina ogni cosa, lo sguardo di chi è perso nell'attesa di te. Parole che ancora non so dire, un inverno così freddo da morire, un passato che non riesco a raccontare a te, a te. Chile, Chile d'amore, stammi lo Radio Veneto Rock. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo parlato di Killer. Anche l'arrangiamento è un arrangiamento roots, nel senso non pesante, cattivo, però movimentato. Sì, sì. Sul lato swingante, swingante folk jazz, però roots, perché è molto basico, sì, molto semplice. Esattamente, cioè, proprio... l'idea è partita da quello, allora, il discorso. Sì, sì, aveva, il pezzo scritto aveva questo andamento, poi l'idea era proprio di accompagnarlo molto semplicemente con un batteria, un walking bass che lo portasse, ecco, molto. Per gli ignoranti, cos'è un walking bass? È proprio il modo di suonare il basso che cammina, un basso camminante. Sì, walking, sì, giustamente. Proprio walking, che senti come sentissi i passi, cioè, esatto, lui che ti porta. E direi che tutto si regge su questo basso portante, come fosse un po' un contrabbasso. E poi intorno c'è poco altro, sono due chitarre elettriche, una batteria spazzolata e un suonino, basta. Ricordiamo allora la band che ha suonato, visto che ci siamo. Come no, molto volentieri, a partire dal già citato Ray Tarantino, che è il produttore del disco, ha suonato le chitarre elettriche e un sacco di altra roba, e, Nick Taccori alla batteria, e Andrea Viti, che bassista, che da anni, l'unico che da anni suona con me, al basso. E poi c'è anche in alcuni pezzi Maxi Arvo, che suona il giradischi. E cos'è il giradischi? È proprio il giradischi. Ah, è proprio il giradischi. Sì, il giradischi, solo che non suona le parti di prese dai vinile in velocità e in tonalità con i brani, con le canzoni. Cioè, quindi dal vinile cerca delle parti strumentali che si inseriscono sui pezzi. È una cosa che dal vivo ho sempre fatto prima. Ah, facevi già? Facevo. Lui è anche uno di quelli che collabora con me da tanto, adesso in realtà dal vivo no. Però è il fatto di trovare dei vinili, soprattutto parti di fiati, di archi o vocali, che stiano in tonalità e in velocità con... Interessante, molto interessante. Da suona, quindi usato come uno strumento. Bellissimo. E con la possibilità di portarsi dietro dei suoni molto belli, insomma. Certamente, certamente, decisamente. Benissimo, quindi la costruzione, cioè la band ha portato avanti questo discorso. E dal vivo, chi viene recepito di questa band? Chi suona con te, oltre a quello... Oltre a qui, no, non sono più con te questo personaggio, questo ragazzo. No? Max adesso no, giradischi in questo momento no, perché il live è un po' cambiato. Diverso. Poi ecco, di quelli che non ho citato, ha suonato il piano Gianluca Mancini, che anche non c'è dal vivo. E diciamo che per quanto riguarda il live, io sono un po' come un armadio dell'IKEA, cioè? a più ante. Ah, cioè, ho capito. Dove c'è spazio per un'anta vado da solo, a seconda dei posti, dei cachet, delle possibilità. Certo, chiaramente sì. E quindi quella è una cosa, per forza di cose, più acustica, un po' come la sentirete qua stasera. Ho fatto invece delle cose in trio, quindi con percussioni e la chitarra. Al suo meglio la band è me più un trio, quindi basso, batteria e chitarra elettrica di Ray, e lì c'è tutta la potenza che c'è. C'è anche grande potenza, sì, la voglia di esplodere. Sì, sì, sì. Perché tu, questo disco, c'è la voglia di esplodere, di venire fuori. Sì. Anche se l'altro disco, come abbiamo già detto, aveva un'altra tematica, un altro modo di interpretarlo. Però sono d'accordo con te. C'era questa voglia di tirare fuori un po' più di esplosione che nei due dischi precedenti, anche nei live dei due dischi precedenti, era tenuta un po' a bada. Perché non so perché, probabilmente anche è stata una reazione, perché con Rosso Maltese era tutto molto esplosivo. Certo, certo. Quando ho cominciato a far da solo ho avuto l'esigenza di sentire più spazi vuoti, più silenzi, e adesso forse, passato del tempo, mi piace essere tornata a una dimensione invece di nuovo un po' più... Perfetto. Così. C'è una telefonata per te, uh-huh. Luca, vai, pronto? Mi senti? Mr. Luca Gemma. Mi sembra di conoscere. Conosci questa voce? Mi sembra di conoscere questa voce. Mi pare che sei Mr. Tarantino. Sono io. Come stai, Luca? Bene, bene. Vabbè, in pratica, fino adesso non abbiamo fatto altro che parlare di te, quindi caschi proprio a pennello. Allora vado. Come stai, Ray? Io bene, voi come state? Ma non è che stai facendo finta e sei qua in realtà, no? Che sei in un'altra stanza. No, magari. Va bene. No, mi piacerebbe. Come stai? Bene, bene, qua siamo arrivati da non molto, abbiamo appena cominciato, comunque bene, stiamo sentendo, per adesso abbiamo sentito i brani del disco e non li abbiamo ancora suonati, comunque è tutto a posto. Non hai suonato ancora niente? No, non ho suonato ancora niente. Tu dove sei? Io avevo una richiesta personale. Ah, porca miseria. Perché Luca è padrone di canzoni strepitose, tra cui Sogno numero uno. Ah. Uh-huh. Giusto? Giusto. E quindi spero che tu riesca a suonarla. E la farò, che del disco precedente, sì sì, volentieri. Visto che lo chiedi, la farò. No, Sogno numero uno, yes. Quella. Certo, sì, è una delle mie canzoni che mi sono uscite meglio nella mia vita, è vero. È incredibile. Ti ringrazio, caro. E lì in radio come va tutto? Bene, bene, bene. Allora, parlavamo della tua esuberanza, come hai prodotto questo disco. Sei stato esuberante. Come eri stato esuberante quando sei venuto qua a suonare da noi? Riconoscono nelle caratteristiche del disco alcune tue caratteristiche di energia e di esuberanza. Io ho detto che è assolutamente così, è vero. No, più che altro abbiamo passato tutto il tempo, cioè molto tempo con Luca a guardare video, ad ascoltare musica. Poi Luca ha scelto le cose che gli piacevano di più. Sì, l'hai scelta anche tu, dai, non fare il modesto. No, non è modesto, è il tuo disco, quindi hai scelto tu. Sì, io ho scelto sicuramente, ma tu, dai, abbiamo anche litigato un po' di volte. Diciamo. Molto abbiamo litigato, sia nei video da vedere durante la produzione, che continuavi a vedere video di Bob Dylan e io ogni tanto... Dicevo che bisognava cambiare tema, e poi su alcune scelte, prima di arrivare a quella definitiva, ci è capitato di discutere animatamente. A vedere sempre i video di Bob Dylan, praticamente. Sì, sì. Poi riuscivamo a fare variazioni sul tema, perché io l'obbligavo a vedere, vediamo anche Rolling Stones, vediamo, ecco, anche appunto. Paul Weller, vediamo Joe Jackson. Lui diceva, sì, però dovresti vedere questa cosa di Bob Dylan con Daniel Lanois. Diciamo che... 2 su 4 era comunque, era comunque da quando l'ha conosciuto veramente, allora sì, c'è da fare. È veramente il suo spirito guida, quindi quello l'abbiamo visto spesso e anche sentito ovviamente. Poi abbiamo passato un sacco di tempo a cercare di rubacchiare, grazie a YouTube, un po' di segreti, di attitudini da musicisti, da dischi che suonavano in modo in cui ci piaceva. Tu hai citato Paul Weller, un musicista straordinario. Che sì, uno dei miei stra preferiti in assoluto, sì. Sì, sì. Ma infatti Luca ha la stessa classe di Paul Weller. Bene, bene, benissimo. Anche a vederlo, ma anche a vederlo. Prima, oltre che sul palco, anche un po' mod. Un po' mod, sì. Non ho la Vespa carenata però, con gli specchietti, eccetera. Però hai un atteggiamento mod in tutta sì, la cosa musicale. Sì, sì, un po' sì. Sì, è il mio, diciamo che è il mio, il mio spirito guida è lui, diciamo. Paul Weller, quindi. Sì. Benissimo. Ray, stai facendo qualcosa te? Stai incidendo qualcosa? Stai costruendo qualcosa? Stai mangiando adesso? Perfetto. Ah, bene. Bene. A che ora? A quest'ora mangi, scusa? Sempre mangio. Sempre. domanda inutile. E vabbè, allora dici cosa stai... Sono nato con una voragine. E dici che stai mangiando, allora facci un po' di invidia in qualche modo. No, adesso sto mangiando cioccolato. Va bene, bene. Sì, perché siamo in Toscana dove ci sono dei cioccolatai molto bravi, quindi... Ecco, io per invidia berrò un goccio d'acqua. Allora, ecco, vedi, cosa che posso la differenza fare è questa. Ma ci sono anche delle barrette di cioccolato lì in un frigorifero dietro da qualche parte, mi sembrava di ricordare. Ah sì, sì. Non, io non le ho viste ancora. No, l'hai scoperto, solo tu riesci a scoprirlo. No, forse no. Comunque, non so se io riesco a sentire poi le canzoni anche dal vivo, che sai. Le registro, te le porto. Ma adesso ci sarà modo di sentirla anche via internet, no? Sì, sì, sì, adesso sì. C'è sicuramente. In streaming, sì, certo. Streaming, sì, certo. Certamente. Esatto, perché io sono qua adesso, che sto qui. Va bene, allora collegati così le senti. Infatti sono collegato, adesso le sento, avevo il volume basso per evitare feedback strani. Ok, ok. Comunque basta, solo un saluto, in realtà volevo soltanto chiedere questa canzone Sogno numero uno che mi piace sempre tanto. Va bene, la farò allora. Bello. Seguro. Ok. Oh, grazie Ray. Grazie Ray. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie Ray. Ciao. Benissimo. Sta una bella cosa. È una bella sorpresa. Una bella sorpresa. Questo che l'avevamo più volte evocato. È arrivato. È arrivato. Tac. Perfetto. Perfetto. Allora, cominciamo a suonare. Cosa suoniamo allora? Avevi detto Educazione sentimentale? Sì, farei una versione dell'Educazione sentimentale. Che è il singolo, così, chiamato singolo. Sì, sì, è il singolo perché è quello che sta passando di più su alcune radio. Abbiamo fatto anche un video, un video con la regia di una regista che è Alessandra Pescetta, e nel video c'è la mia amica Patrizia Laquidara, a cui ho chiesto di che essere attrice. Spesso volte anche qua. Esatto, molto brava, tra parentesi. Molto brava, bravissima artista e cantante. Ha fatto l'attrice, molto brava anche in quello. Ah. E quindi c'è questo video, per cui diciamo che tutto sommato è il singolo, insomma. Perfetto. Per adesso. Oh. Io farò una versione, ovviamente... Una versione da qua, acustica. Esatto, acustica, quindi un po' diversa. Rock Wave, l'onda del rock. Hai un'idea, amore mio, di cosa ci può salvare? Hai un'idea, adatta a noi, di cose da moltiplicare? Ce l'hai un'idea, per l'aldilà, per chi non vuol stare senza? Se la pazienza è una preghiera, tu dilla per non bestemmiare. Oh, l'amore arriva, oh, l'amore va, oh, forse conviene. Restare qua. io vorrei un po' di più di un pensiero divertente, e poi vorrei qualcosa in più di un passato promettente. Ce l'hai un'idea, un'invenzione che ci può meravigliare, l'educazione sentimentale per qualcosa di speciale. Oh, l'amore arriva, oh, l'amore va, oh, forse conviene. Restare qua, restare qua. Ok, benissimo, l'hai rivisitata acusticamente parlando, una cosa molto bella che hai scritto. Mentre ascolto un groove di batteria e basso che ancora oggi al millesimo ascolto mi mette di buon umore, io ottimisticamente penso che nonostante tutta la bruttezza che vedo intorno a me potremo ancora rieducare i nostri sentimenti. Una cosa bellissima quella che hai scritto, mm-hmm. secondo me. E poi hai scritto, sì, tra parentesi, folk e soul. Mm-hmm. Sì, folk e soul rientra in questo... in questo divertimento che mi sono concesso, per cui su dietro ogni, cioè ogni titolo di ogni singolo brano nel libretto del disco mi sono divertito a mettere il genere un po' come si usa sugli spartiti, per cui o perlomeno sicuramente gli spartiti di un tempo in cui si metteva begin, valzer, certo, rock in quattro quarti, eccetera. E mi sono divertito, siccome è nato dal titolo, il titolo esprime un concetto musicale che è folkadelica, allora su ogni brano ho detto: beh, questo cos'è? Questo è folk e soul, questo è folk e jazz, questo è veramente folkadelic, questo è roots rock reggae, così. Su ogni pezzo mi sono è una cosa che mi ha divertito molto fare. Dai l'input giusto a chi sente, chi ascolta, secondo sì, me. Sì, un po' sì, nel senso che è quello che ho sentito io e mi piaceva dare come dare un'indicazione in più. Poi ognuno può pensare comunque a quello che gli pare, certo, però comunque ha a che fare con i generi musicali che si sentono dentro, insomma. Ecco, a proposito di generi musicali, è molto bella la copertina, la possiamo descrivere. Ricorda qualcosa che tu amavi particolarmente e ami ancora particolarmente? Sì, c'è un'ispirazione dichiarata nella foto di copertina che ha fatto mio padre. Tuo papà? E anche le foto che ci sono all'interno, eccetera. È un'ispirazione da un disco e da una copertina molto, molto bella di Lucio Battisti, che il disco è Anima Latina del 73-74, sì, che io ho in vinile, per cui la copertina è veramente un lenzuolone che vero, si apre, è doppio, la copertina doppia. E all'interno c'è questa foto bucolica su queste colline molto verdi al tramonto, ci sono questi bambini un po' zingari che hanno in mano degli strumenti da banda, basso, tuba, eccetera, ricordo. E così cromaticamente, come ambientazione, era una cosa che mi è sempre rimasta impressa. Allora quando siamo arrivati al punto di dover fare delle Roma, foto di Roma, ero sì dai miei, appunto, che abitano in campagna fuori Roma, in questa situazione bucolica molto simile a quella di quel disco di quel Battisti disco, che era più o meno di quella zona lì, Allora ho chiesto a mio padre di cominciare a fare un po' di foto e da lì sono venute fuori quelle... C'è tuo figlio, dicevi? Tirato. Sì, c'è dietro mio figlio che giocava con suo cugino, per cui ci sono questi due bambini così un po' da povertà estiva con sti mutandoni che mezzi nudi che facevano la lotta e io diciamo un po' più in primo piano con altre cose un po'... C'è un innaffiatoio con un girasole reciso dentro... E, insomma, secondo me si legava a questa, comunque all'atmosfera che c'è nel disco. Sì, esatto. Cerco sempre che le cose tra titolo, foto, eccetera, siano comunque un po' un concetto. E volevo arrivare proprio a questo: c'è proprio l'atmosfera, c'è proprio un collegamento indiretto con Anima Latina, quel modo di descrivere, quel modo di arrangiare, quel modo di creare la musica. Sì. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo, per me è un complimento, mi piacerebbe molto, insomma. Io tra l'altro di Battisti, che ovviamente è un grandissimo autore di canzoni, a me piaceva moltissimo anche come cantante con la sua voce lievemente rauca e mi è sempre piaciuto anche per quello. Ha scritto delle cose, beh, lo sappiamo tutti, memorabili, come Lennon McCartney per la musica italiana, insomma. Però a me piacciono in particolare le cose in cui appunto si è concesso delle libertà oltre la stretta forma canzone, su cui era ovviamente un genio. E in quel disco in particolare ci sono molte, molte libertà, molte code strumentali, molte cose un po' psichedeliche, certo, tipiche di quegli anni, ed è una cosa che c'è anche in questo mio disco. Ci sono appunto delle code strumentali, delle code inaspettate, dei rumori, dei suoni rumoristici che vanno un po' ogni tanto a rompere le scatole, la forma canzone. Quindi la melodia è una melodia, tra virgolette, che tu crei, che tu sviluppi, che tu allarghi, insomma. Sì, okay. Sì, esatto. Ecco, concedersi ogni tanto appunto anche di lasciar parlare la musica oltre le parole, perché poi io comunque che anomalo, sghembo, storto, comunque sono un po' un cantautore, insomma, certo, anche se a modo mio, quindi ovviamente hanno molto significato per me le parole, però mi piace, comunque siccome mi piace la musica, poi, chiaro, mi piace molto che a volte sia la musica senza le parole, senza la voce a parlare, per cui ci sono in particolare due pezzi che hanno una coda, credo, di 3 minuti. Volutamente così, e che è la parte maggiore del pezzo, cioè la parte cantata dura 1 minuto e mezzo, il resto è coda strumentale. Secondo me questa è una cosa che ci stava bene, insomma. Ottimo. A proposito, ritornando a Battisti, tu lo sai sicuramente, quando ha cominciato la carriera gli avevano detto: tu non sai cantare, tu fai solo l'autore. Era così. E poi chiaramente non è successo, però ha cominciato a fare solo l'autore. Sì, sì, sì. Perché non sapeva cantare, secondo lo stesso Mogol. Poi ha cambiato idea. Sì. Lo so, l'hanno detto di tanti, anche di Paolo Conte. Anche di Paolo Conte. Perché per anni anche lui ha fatto solo l'autore. Ha fatto Azzurro, dobbiamo ricordarlo, sì, l'ha scritto lui. Azzurro, Insieme a te non ci sto più. Certo, quindi pezzi epocali. Canzoni memorabili, però anche lui non si fidava di cantare, forse nessuno si fidava di farlo cantare. Non so, tutte e due secondo me hanno delle voci che invece a me piacciono molto, perché sono molto molto comunicative. A me per esempio i pezzi di Battisti piacciono cantati solo da lui. Ah, ho capito. Non mi interessano cantati dagli altri, neanche da cantanti. Da Mina. Anche da Mina, in qualche modo, forse l'unica, che, ovviamente essendo una cantante micidiale, strepitosa, è forse l'unica che li stravolge talmente che se ne appropria in un altro modo. Quelli, certo, che li cantano come lui non mi interessano, mi piace sentire la sua voce, anche se un po' rauca, un, sì, po' stridula, un po' strano, piccolina, un po' particolare, che poi lui aveva questo vezzo, che era anche un trucco per avere quel suono lì. Lui incideva le voci sempre nelle ore del mattino. Ah. Lui tutti i dischi li registrava dalle 10 del mattino in poi, perché gli piaceva, perché la notte la voce riposa, perché, certo, stai zitto, e quindi è molto vergine al mattino, non hai ancora parlato, magari non hai fumato una sigaretta, non hai... Quindi ha proprio i colori che si devono aprire piano piano, e lui registrava le voci appositamente di mattina per avere quel suono così. Bene, adesso secondo me, non so se sei d'accordo, sentiamo un altro pezzo dal tuo disco. Sì, come no. La traccia, cosa abbiamo scelto, Michele, ti ricordi? La traccia numero 11, che è la traccia finale. Ne parliamo un momento o vuoi parlarne dopo? Cosa dici? Ne parliamo dopo. Scegli tu, dopo. Ne parliamo musica. Dopo, ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Sei felice, sei felice un po'. Che domanda, non lo so. Credo di sì. E poi credo di no. Sei felice, sei felice un po', qualche volta sì, altre no. Che fantasia, che risposta mi dai? Certo anche tu, che domande mi fai? E va bene, qualche volta sembro stanco. Sei felice un po', Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Agostino mi ha fatto una comunicazione, dobbiamo dirla chiaramente. Ci saluta, c'è un nostro ascoltatore, si chiama Bartolino, dalle isole Eolie, ci sente. Ah, bellissimo. Bellissimo, beato una cosa lui, tra l'altro. Beato lui, non so che tempo ci sia alle isole Eolie adesso. Secondo me sarà bello. Sarà bello, vero? Una cosa meravigliosa. Grazie a Bartolino dalle isole Eolie che ci sente, grazie, che apprezza i nostri live, e chiaramente è quello di Luca Gemma. Grazie. Allora, abbiamo parlato di questo pezzo e del finale, un po' particolare, un po' contorto, mm-hmm, un po' roots, un po' psichedelico, tra virgolette. Cosa dici, Luca? Sì, direi questo in particolare è un po' ipnotico. Cioè, ipnotico, hai detto ipnotico, una cosa psichedelico. Cioè, questo resta lì, si aggiunge sempre qualche mattoncino poco per volta, però è proprio una... si basa sulla dilatazione del suono, del tempo, è molto lento, viene in coda a una specie di blues altrettanto lento, e alla fine però senza la chitarra e senza la voce si distende ancora di più, e secondo me è proprio la degna chiusa del disco. Hai parlato di blues, perché c'è anche il blues in questo disco, si sente, non si sente moltissimo, ma c'è, esiste. Sì, c'è fuori un po' nell'attitudine. È nell'attitudine. Io sono più, se devo scegliere tra i vari generi di cui sono appassionato, in particolare quelli appunto di derivazione afroamericana, a me piace più il rhythm blues, del blues. Quindi diciamo quello da Ray Charles in poi, dagli anni fino agli anni 50 in poi, più del blues canonico. Però sicuramente nel modo di suonare la chitarra elettrica di Ray c'è molta attitudine blues, e quindi viene fuori. In particolare questo pezzo che abbiamo sentito è un pezzo di cui la musica è proprio un brano suo, su cui io ho scritto il testo in italiano. Ho capito. E quindi ha quel fraseggio lì. Eh sì, perché lui ha quelle corde. Sì, sì, sì, esatto. Ma come crea un pezzo Luca Gemma? Lo sviluppa a casa, su un foglio di carta, e poi come lo sviluppa? Ma io parto il 90% dei casi dalla musica e non dalle parole. Ah, quindi dalla musica prima. Dalla musica. Quindi parto e solitamente o alla chitarra o al pianoforte dentro casa. Quasi sempre dentro casa, in cucina, in qualsiasi posto. E comunque parto dalla musica, per cui ci lavoro sempre un po', se qualcosa mi colpisce me la ricordo e poi dopo un po' la registro, così la tengo lì. E poi quando la risento capisco se vale la pena insistere o se invece magari è una cosa già sentita da me, non interessante da mollare lì. Questo succede ovviamente molto spesso. Quindi prima quasi esclusivamente sulla musica e sulla melodia. Quindi il cantato proprio, sento come suona la voce, sento da lì comincia magari ad affiorare qualche parola italiana, perché all'inizio è una roba di suoni proprio maccheronici, I want somebody, più il suono, e poi a me interessa trovare le parole italiane che suonino. Ah, ho capito. Cioè, io lavoro molto sul suono delle parole italiane, quindi al di là del significato letterario, del fatto che devi scrivere un testo che comunque a me piace che sia narrativo, che racconti qualcosa, che si capisca, mi piace che suonino, e spesso il suono è dettato dai primi suoni che ho trovato con la voce sul pezzo, per cui se una melodia è tutta con la A e la O cerco di trovare parole che mantengano, perché se poi cambi per esempio le vocali anche la melodia cambia. In qualche modo cambia. Ho capito. Quindi questo è un po' il mio procedimento. Tu poi le tiro per le lunghe, sui testi ci sto veramente molto, non sono quasi... Fino a essere soddisfatto ci metto veramente, veramente tanto. Adesso ti racconto una storia, un aneddoto così divertente. Finardi, che abbiamo intervistato alcuni anni fa, diceva che lui quando scriveva in treno aveva un block notes e fischiettava una melodia e scriveva in treno. Beh no, perché lui spesso andava in treno. Sicuramente il treno, anche nella storia, essendo anche lui mezzo americano e quindi sì, buon conoscitore di blues e cose affini, il treno è sempre stato il mezzo per eccellenza del blues, del jazz, no? C'è sempre qualche treno in qualche brano blues. E poi dobbiamo te ricordare, tu sei un giramondo, perché sei nato a Ivrea, ma sei stato in Germania, sei andato a Roma, poi sei andato a Milano, quindi sì. Anche te hai, non so se il treno, no, però hai girato sì, no, non particolarmente il treno. In treno, no. Però ultimamente molto in bicicletta. Ecco, è bella cosa girare in bicicletta. Sì, sì. Ok, 23, e sono le 23. Adesso ci serve una cosa, ci serve il giochino, mm-hmm. ma ti do qualche minuto di tempo per pensarci, suonando, però adesso suoni qualcosa dal giochino. Sì, gioco. Va bene, ok. Cosa allora, vuoi suonare? Suono un altro pezzo di Folkadelic, questa si chiama La canzone della gioia. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Buongiorno a te, mio desiderio, stai qui con me e spegni il pensiero. Buongiorno a te, mio cielo immenso, in questa stanza tu illumina i sensi. Dammi gioia, solo gioia e poi libertà. Vieni e sciogli ed uccidi ogni gravità. Quello che ho non conta niente, quello che so dura un istante. Dammi gioia, solo gioia e poi libertà. Vieni e sciogli ed uccidi ogni gravità. Dammi un'idea della felicità, dammi un'idea o almeno la metà, dammi un'idea per la felicità, dammi un motivo per restare qua. Sono le 23 e 3 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta a rockwave.alterlista.org. Ci potete vedere e sentire, quindi vedere e sentire Luca Gemma che suona stasera qui a Rock Wave. Ringraziamo anche il nostro direttore artistico che ha organizzato il concerto, Alberto Plisco, che senza di lui tu non saresti qua stasera. No, è vero. Bisogna dirlo. Certo, grazie. E parliamo un momento di questo pezzo. Tu hai scritto esercizi a corpo libero, seppur con un ritmo più giocoso rispetto a Nudi, un altro pezzo, è una questione di corpi che cercano armonia, gioia e felicità. Mm-hmm. E il pezzo era molto gioioso, divertente, accattivante. Sì, fa un po' il paio con Nudi, sono appunto i due brani più tematicamente carnali del disco. Del disco. Per cui parlano proprio di di questa sì, di corpi, corpi che, si muovono, che si muovono e che si liberano e che e quindi cioè, se io metto sempre dentro nelle mie canzoni. Poi qualcuno ha anche detto che in pratica ognuno scrive quasi sempre la stessa canzone sostanzialmente. In un certo senso io sono abbastanza d'accordo che alla fine un po' magari cambia la forma, ma il modo, la sostanza, poi io metto sempre dentro questa, questa un po' la tematica dei desideri le, e quindi questa ricerca di bellezza, di armonia, di... sì, è una cosa che ritrovo spesso nei nelle mie canzoni. A volte è una cosa più, più intima, magari più spirituale. A volte è una cosa anche proprio più corporea. E questi due pezzi, tra cui appunto la canzone della gioia, anche ritmicamente sì, parlano proprio del, di una cosa proprio fisica, insomma. Ecco. A proposito, adesso sono le 23.05. Noi, non so se ti ricordi, due anni fa c'è il giochino, i cinque dischi da portare su un'isola deserta. E forse già allora io ti avevo detto, caspita, solo cinque. Solo cinque, esattamente. Stavolta non cazzo, sono sempre cinque. Dopo due anni o due anni che non ci vediamo, sono cambiati i gusti? Penso di sì o no, sono rimasti gli stessi? Non lo so. Cinque, comunque cinque album, no? Cinque album, quello che vuoi. Cinque, cinque entità. Cinque entità, perfetto. Allora... Sticky Fingers dei Rolling Stones. Torniamoci un momento. Oltre alla strepitosa copertina di Wendy Warhol, White Horses, solo loro potevano scriverlo. Sì. Solo loro potevano scrivere Stick Finger. Solo loro potevano scrivere. Quello è un album veramente pazzesco. Epocale. È l'album della rinascita totale dell'etichetta, la Rolling Stone Records, la famosa lingua di Andy Warhol. E loro hanno sdoganato, sono partiti. Tra l'altro io di quel disco avevo, ho il disco in vinile, che era una ristampa, quindi copertina di Andy Warhol, il pacco in evidenza di Mick Jagger, ma senza cerniera. Però un giorno in un mercatino del vinile usato in Francia ho trovato quello originale con la cerniera, quindi ho la doppia copia e ho anche quello con la cerniera che si apre. Strepitoso. Quindi quello sicuramente anche per la copertina lo devo portare sull'isola. Quella è una chicca assoluta. Sei uno di pochi fortunati. Sì, penso che a questo punto abbia anche un discreto valore da collezionismo. Secondo il sottoscritto sicuramente la cerniera di Andy Warhol, ragazzi. Incredibile. Solo Andy Warhol poteva immaginarsi una cosa simile. Sì, no, infatti lui ne ha fatte di copertine fantastiche. Comunque quello sicuro. Quindi Stick Finger, quindi Rolling. Sì, poi porterei Abbey Road dei Beatles. Un altro album epocale, è stato di recente osannato. Non è tra i più osannati di quelli dei Beatles, perché solitamente di loro si parla sempre di Sgt. Pepper, soprattutto. Poi un po' dell'album bianco, del White Album. C'è Something in Abbey Road. C'è Something, c'è Here Comes the Sun. Here comes the sun. E poi c'è un blues di John Lennon che è I Want You, che secondo me forse bellissimo, è il blues più bello che io abbia mai sentito. E dura un'infinità, c'è cioè una coda, cambia sempre ritmicamente, una cosa fantastica. E poi una copertina storica, chi non può ricordarsi una copertina simile. Chi era a piedi nudi? Chi era a piedi nudi? Allora, è morto, non è morto, è vivo, non è vivo. Anche lì una leggenda. La leggenda che continua e non si ferma mai. Sono rimasti solo in due, però la leggenda continua. Sì, c'è poco da fare. Non c'è, e sono il cardine della musica popolare del Novecento. Sì, sono d'accordo con te. Dal 61-62, io recentemente sono stati rimasterizzati tutti. E certe cose vengono fuori, certe cose nascoste. Erano mono, ricordiamo, erano mono a quell'epoca, però... Erano mono e al massimo hanno registrato con 8 piste. Esattamente, con 8 piste. Michele è molto esperto delle registrazioni, degli 8 piste. Uno esperto di registrazioni. Si sente in sottofondo. I Beatles sono sempre i Beatles. Comunque sì, loro sono veramente... Per cui, e siamo arrivati a due, a no? A due. Poi... dunque, per arrivare... Puoi andare in qualsiasi epoca, musicalmente parlando, quello che vuoi. Sì. Metterei... proprio per i miei gusti formativi, The Queen is Dead degli Smiths del 1986. Perché questo antagonismo tra Morrissey e l'altro chitarrista? Johnny Marr. Marr e Morrissey in antagonismo. Il grande genio, il grande frontman e il chitarrista che senza di lui non esisteva il suono degli Smiths. infatti le cose di Morris e da solo sono completamente diverse. Esattamente, ha fatto delle cose belline, sì, però non ai livelli degli album degli Smiths. Anche lì il connubio, suono, il suono della chitarra di Mar è solo quello. Il connubio tra loro due è stato proprio perfetto su 4-5 album. E quel disco là, in vinile, non vorrei insistere, ma comunque era l'80. Hai tanti dischi in vinile, sì, sì, ne ho parecchi, ma poi fino a... adesso non ricordo l'anno in cui il CD ha preso nettamente il sopravvento, sì, forse verso, per quello che mi riguarda, il 93-94. Per cui fino ad allora io li ho tutti comprati comunque in vinile, ma a caso ho ancora un bel piatto Pioneer con cui sento, bello. Sento i miei adesso vinili. È un ritorno ai piatti, ai dischi in vinile, sì. Quelli pesanti però. Sì, sono belli tra l'altro. Sono quelli... costano un po' troppo qualche volta. Sì, sono questi che fanno adesso, sì. Che sono 160 grammi. Esatto, 160 grammi, sì. Sì. Sono belli però. Belli, belli corposi, sì. Io e te siamo di una certa generazione, sono più vecchio di te chiaramente, però... Sì, siamo lì. Siamo là, e la bellezza di aprire un disco in vinile era tutta un'altra cosa, sì, che sì. Non aprire un CD. CD sì. È un'altra cosa, non ha anima il CD. È vero. Il sapore, c'era un sapore. Anche sì, anche un odore. Anche un odore. L'odore del vinile, della copertina. Cosa dici, Michele? Sei d'accordo? più la pasta asciutta. In ogni caso aveva un sapore odore. Ha il suo perché anche quello. Certamente. Quindi abbiamo detto questo disco dei Smiths. Degli Smiths, The Queen is Dead. The Queen sì. is Dead. Poi, ci potrei mettere un Vedrai di Tenco. Ecco, Tenco. Io ricordo che Vedrai Vedrai era un singolo cantato da Farida. Ti ricordi Farida? No. Farida, ecco, l'unico, chiaramente dopo l'inciso Tenco, l'ha cantato Tenco e tante altre persone, però il singolo della famosa etichetta ARC, l'etichetta che era sotto marca della HIT, c'era un singolo, c'era Vedrai Vedrai, cantato da Farida, una cantante che incise solo quello e poi sparì dalla circolazione. Quindi anche lui aveva iniziato, era autore del brano e basta. Sì, è solo autore del brano, poi l'ha cantato, però il singolo era stato lanciato da Farida, era una cantante, brava! Un grande appello, cioè un grande pathos, sì, sì. Però era un singolo. Quanti pezzi belli hai scritto, Tenco? Moltissimi, anche non conosciuti. Non conosciuti. Sì, noi sì. Tutti ricordo Ciao Amore Ciao, ma non c'è solo Ciao Amore Ciao, no, Vedrai Vedrai, ce ne sono tanti altri. C'è un pezzo che a me piace tantissimo, che è uno dei pochi che non ha scritto lui, la cui musica è di Morricone e le parole di Luciano Salce. Ah, però. Ed è un pezzo proprio di atmosfera western che anticipa un po' le colonne sonore western che ha fatto per Sergio Leone, poi Morricone. E il pezzo adesso non mi viene in mente il titolo, però proprio ha una melodia stupenda, molto morriconiana, ed è un bel connubio tra quello che conosciamo noi di Morricone e la canzone d'autore. Quindi di Tenco lo porterei sicuramente. Sì, un'altra cosa che ho scoperto non tanto tempo fa, dei Primitives, l'ha scritta Tenco. Ah sì? Eh sì, l'ha scritta lui. Quella, uno faro negli occhi. Dei Primitives, di Mal. L'ho visto prima in televisione, mi è venuto in mente questa. L'ha scritta Tenco, c'è poco da fare. Ma era uno... E sai perché? C'è un motivo, bravo. Perché all'RCA all'epoca c'erano gli scrittori di pezzi. Ah, sì, sì. E c'erano i musicisti come Morricone, c'erano gli scrittori di pezzi, sì. Che erano i giovani cantanti, i giovani di prima nomina, certo. E scrivevano i pezzi per i grossi musicisti. Sì, sì. E dei Primitives l'ha scritta Tenco. Questo non lo sapevo proprio, sono contento però. Okay. Un super pop. Sì, perché lui ha fatto tante cose, molto più avanti, era molto avanti, l'ha stato capito. Sì, sì, indubbiamente. Però io proprio credo, Vedrai Vedrai per me è proprio, ecco, una delle cinque canzoni italiane più belle della storia della musica. Quindi ogni volta che la sento ha la capacità di muovermi veramente dentro qualcosa di potente. Quindi bello. Ok, questo è il terzo disco, il quarto. Abbiamo detto Stones, uno. Beatles, Smiths, questo di Tenco. E poi un ultimo. E poi direi, sì, difficile trovare il quinto perché me ne vengono in mente molti. Comunque Rain Dogs di Tom Waits, del 1985. Un altro disco epocale, ha sdoganato per tanta gente Tom Waits. Sì. A me piaceva molto Blue Valentine, però Rain Dogs. Ah, bellissimo. Blue Valentine mi piaceva stupendo. Molto. Ma Rain Dogs è un disco... bellissimo. Rain Dogs, poi il fatto anche che fosse parte colonna sonora di Down by Law di Jim Jarmusch con Benigni, John Lurie e Rain Dogs, per esempio, io è lì che l'ho conosciuto. Ah, l'hai conosciuto. Non conoscevo le cose precedenti, quindi sono andato al cinema, ho sentito questi pezzi e ho detto "E chi è questo genio?". Michele ha scelto un pezzo sempre di Tom Waits. Questo è stupendo. È molto bello anche questo, decisamente. Questa è della raccolta, questa era nell'altro film di Benigni. quello in cui è il poeta, non mi ricordo ovviamente il titolo, e comunque in una raccolta doppia che c'è, che è il suo ultimo disco uscito, un triplo anzi, Orphans, sì, Brawlers, sì, sì, and Daughters. Sì, è stato un triplo, sì. È stato molto contento anche Rod Stewart per quanto riguarda Rain Dogs, lo sai perché, no? Eh sì, è per questo che ha rifatto Downtown Train, esatto, sì. Singolo milionario, Beh, lì è stato contento anche Tom Waits, esattamente, perché i diritti sono arrivati a lui e il suo disco ovviamente non aveva venduto neanche un decimo. È stato portato in alto grazie a Rod Stewart, è grande anche lui, grandissimo cantante, con i Fishies ha fatto le cose meravigliose, sì, anche da solo, anche a me, anche solo. Le cose degli anni 70-80, I Think I'm Sexy, sì. Young Hearts, quelle cose molto pop, però si vede che aveva tanta, sì, tanta tanto background, sì, sì. Fishies era un gruppo straordinario, sì, ho voglia. Ok, benissimo, 23 e 16 quasi. Sei pronto per fare un altro pezzo live? Vuoi che facciamo, sì, il pezzo che Tarantino facciamo, ci ha chiesto? Stavo pensando anch'io, perché sennò sembra di evadere la richiesta, la richiesta non è giusta. Non, sì, è giusto. Quindi facciamo il passo indietro al mio disco precedente, appunto Tecniche di illuminazione, e questo pezzo lo faccio in una versione che ho rifatto su che non è quella del disco là, ma è un disco che è uscito poi dopo, che si chiama il disco di Salotto Live, di questi house concerts, una compilation di cantanti che hanno suonato in questi house concerts. In quell'occasione io ho riarrangiato il pezzo in questa maniera, ancora la faccio ora, si chiama Sogno numero 1. Rock Wave, l'onda del rock. Il più bello, il più elegante, il più sinuoso essere vivente, il più bianco, lucente e intrigante, il più perfetto con l'assetto di un aliante. Mi lasci così, come cadavere sfregiato, così, come animale abbandonato, ammalato. Eri un sogno, eri il cigno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto. Come un lampo in mezzo al cielo, come un colpo di fucile nel pensiero. Vorrei una bugia e ti crederei per sempre. Una bugia e ti sarei sempre grato. Incantato, eri un sogno, eri il sogno più bello del mondo, sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto. E ti sarò sempre grato. Di una bugia e ti sarò sempre grato. Incantato, eri un sogno, eri il sogno più bello del mondo. Sogno infranto. E questo stanotte è il mio canto. E questo stanotte è il mio canto. E questo stanotte. Radio Rock Wave, l'onda del rock. E aveva ragione Ray, questo è un grandissimo pezzo. Non so se sei ancora all'ascolto. Ciao Ray, avevi perfettamente ragione. È un pezzo meraviglioso che Luca adesso ha trasformato chiaramente, però l'input è sempre quello. Il pezzo è sempre quello. Se è bello, è bello, bello. Anche se lo trasformi, è sempre bello. Rimane bello, secondo me. Sì, ammetto che è uno dei pezzi che mi sono meglio riusciti nella mia, tua carriera. Nella mia carriera. Beh, ci saranno altri che riusciranno, no? Sì, sì. Sì, beh, sì. Beh, appunto, spero proprio di sì. Appunto, però, questo, però è... questo tra quelli fatti finora lo reputo proprio uno dei più belli. È proprio sentito grande pathos. L'hai interpretato in versione acustica qua stasera, ma sempre con il pathos, con il trasporto, quello è importante secondo me. Sì, sono contento. Bene. Grazie. Parliamo un momento, se hai in mente qualche tournée, qualche data, qualcosa. Sì, sì, abbiamo cominciato da poco e tra l'altro la prossima sarà proprio qui a Padova. Ah, bene. Il 30 aprile al Fish Market. Bene. E sarà in formazione in trio con me più basso batteria, perché appunto quindi un po' di vigore. Sì, allora sì, bella, ti piace, bella tirata, bella tirata. E poi poi a maggio una a Isola della Scala, quindi Verona, una in un festival vicino Bologna il 22, questo 21-22. O forse queste sono, no, queste sono giugno, mi sbaglio, giugno. Maggio vado sud e centro Italia, Eboli, poi San Vincenzo vicino Livorno, e poi c'è Roma, poi c'è Ischia, insomma. Beh, un po' di date, sì, ce ne sono un po' alla rinfusa ancora, ma però ci sono. Lentamente si stanno, sì, stanno mettendo i tasselli, come si chiamati. Sì, sì, esatto. Che è un disco diverso, dobbiamo ripeterlo, ma un disco diverso, ma diverso nel senso positivo, cioè c'è un'evoluzione, c'è un... tu hai scelto una strada, hai voluto allargare determinati campi. Sì, e poi guarda, proprio a proposito del live, è un disco che ha proprio una sua bella storia dal vivo, cioè è un disco che rende molto bene live, molto potente, con molta dinamica, nel senso in molti momenti appunto pieni di suono e molti invece di più silenziosi, svuotati di suono. Comunque mi piace molto per quello, perché è un po' estremizzato questo concetto del pianissimo e del fortissimo, che è una cosa che io apprezzo sempre molto nei live degli altri. Sì, e che, capito. Cosa hai visto di recente per i live degli altri? Dunque, di recente... recentissimo adesso non mi viene in mente, quindi probabilmente non ho visto granché. Beh, perché magari non sentito. Di abbastanza recente ho visto sì, l'estate scorsa ho visto i Radiohead, ho visto Paul Weller. Come ti sono... Beh, Paul Weller è un tuo idolo, sì, il mio idolo, per cui in qualsiasi salsa io lo veda riesce sempre a piacermi. Ho visto Nick Cave in versione com'è Nick Cave in versione che era hai visto? Molto bello, molto diverso, io l'avevo già visto diverse volte, un concerto in cui non ha minimamente toccato il pianoforte dopo diversi dischi molto pianistici, sì, certo, di ballad. Invece era un concerto molto al limite dello stoner rock, proprio tiratissimo. Lui ogni tanto ha la chitarra elettrica, violino quasi sempre distorto, e molto molto bello. È una band, me, Bad Seeds, come piacciono, cioè, proprio è ritornato suono... i vecchi amori praticamente. Sì, sì, a me piaceva moltissimo di lui Marner Ballad, ballate, queste morbose, umbrose, a me piaceva bellissimo. Quel disco, l'ho sentito un sacco di volte. Anche a me è uno dei miei bellissimo preferiti. Lui, sì, ha la, sì, capacità di fare quello che vuole, sì, dal, sì, rock più lisergico alle sì. ballate incredibili. Il piano e voce e poco altro, sì. Infatti è un grandissimo. È un Let Love In per me è anche uno dei... Se torno sull'isola, come sesto disco porto Let Love In, che è quello immediatamente dopo Murder sì, Ballads. Esattamente, no? Si può perché... stare. E l'hanno ristampati tutti un'altra volta adesso con qualche bonus track. C'è un po' di movimento nel catalogo di Nicky. Sì, sì. Io sono contento, quasi tutto anche, anche di lui. Sì. Però, sempre in vinile? No, o in... no lui, solo, in... solo Harris Dream ho in vinile. Ah, ok. Anche quello ce l'ho anch'io, Harris Dream in vinile. Che è stato lui. Poi dopo ho cominciato con e poi ho cominciato a calare il vinile. Esatto. Purtroppo, se non ci sono più i vinili, si sì, deve accontentare. Appunto, adesso sono tornati, si trovano ancora anche cose mai uscite in vinile negli anni 90. Vero. Però prima non... c'è stato un periodo in cui proprio per 10 anni non... non ci sono stati proprio, no, quindi esattamente. Era impossibile approvvigionarsi. Quindi, e ho visto sì, Radiohead, Ram e Nick Cave e Paul Weller, li ho visti a stretto giro tutto intorno alla primavera estate scorsa. E ultimamente non, forse non l'ho visto. E Luca Gemma dal vivo improvvisa oppure no? Ma diciamo che c'è una scaletta di brani che più o meno... Quindi è una scaletta già predisposta, poi... Sì, però poi magari si cambia a seconda anche della del serata, luogo. Del luogo, dell'umore, ci sono inversioni di ordine, oppure certe cose poi si scopre che non vanno bene in quel posto, si tolgono, eccetera. All'interno dei brani c'è un po' di margine di improvvisazione, un po' sulla durata dei brani, per cui ci sono alcune parti libere. Alcune parti molto libere, strumentali, soprattutto quando ci sono un po' di cose di chitarra e lì ci lasciamo andare. Poi c'è un po' si improvvisa il rapporto con il pubblico, insomma. Una dichiarazione di Ray, te la leggo. Ah, sì. Me l'ha appena portato Agostino. Che meraviglia questa canzone, vero? Punto di domanda. Ogni volta che la sento mi vengono in mente le più belle canzoni degli ultimi 100 anni. Grande Luca, se avessero messo questa canzone in un film di Scorsese avrebbe venduto 100.000 copie. Ma... hai capito? Ray tardi la firma, quindi si sta sentendo ancora. Grazie Ray. Allora ciao, a questo Ray. Punto fai un bel testo in inglese di questo brano e così lo mandiamo su e poi vai in classifica. Esatto, per uno dei prossimi film di Scorsese. Tu pensa al testo in inglese così glielo mandiamo. Vedi che Scorsese, di la Scorsese, c'è sempre c'è niente da fare, di la aleggia sempre, c'è sempre aperto. Però posso dire a mia discolpa che c'è anche Shine a Light di il film dei Rolling sui Rolling Stones. A 100 milioni di copie, a 100 milioni. Allora andiamo alla 100 grande. Milioni, va bene, allora scrivilo anche in aramaico, in inglese, in russo, in tutte le 100 milioni di copie, bellissimo. Alla Michael Jackson. Noi abbiamo 101 milioni, insomma. Sì, va bene. È tutta un'altra cosa. Cioè, Dila aleggia se non c'è niente da fare. Ricco Dila non c'è, no. Lo metti in tutte le salse, praticamente. Però appunto, su Scorsese posso dire anch'io... Sei d'accordo con Scorsese? Sì, non so la cosa, siccome però andiamo pari, perché avendo girato lui l'anno scorso Shine a Light sì, sui Rolling Stones, esattamente. Allora dopo The Band The Last Waltz ci abbiamo anche Shine a Light, quindi siamo a posto, siamo pari almeno. Ok, adesso mentre si disseta un momento Ray, non so cosa vuoi fare, vuoi suonare qualcosa d'altro, sì o no? Sì, certo. Suoniamo qualcosa, dai. Come a tuo piacimento. Ok, suono questo pezzo che si chiama Un Miliardo, che altro pezzo di cui la musica è interamente scritta da Ray. Da Ray. Era un sarà pezzo... contento a sentirlo, visto? Sì, immagino di sì. È un pezzo che esiste anche nella sua versione inglese. Io poi ho scritto il testo in italiano, che è diverso, però esiste, ha una sua anima anche in una versione che fa lui. Benissimo. Questo è Un Miliardo. Rock Wave, l'onda del rock. Signori, mani in alto, scusate lo spavento, vi ruberò un istante e poi vi rubo il resto. Durerà poco, se voi sarete buoni con me, sarò ben educato, un vero gentleman. Sono un cantante e voglio un miliardo di euro in contante. I dei sono stati grandi, ma troppo esuberanti. Mi han dato molti cuori, sono tutti infranti. È che sono generoso con chi mi ama davvero. Insomma, ho molte spese come ogni gentleman. Sono un cantante e voglio un miliardo di euro in contante. Signori, grazie a tutti, e scusate lo spavento, ma l'arte dà i suoi frutti, ed è giusto così, ed è giusto così. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'hai proprio colorato, Luca. Hai dato l'anima. L'anima. Proprio il soul. Sì. Cioè, proprio, l'hai proprio colorato. Hai dato quella potenza e poi alla fine hai scemato, giustamente. Potenza sì. E quiete. Dopo potenza, la tempesta, si può dire così. Esatto. Forse proprio perché il famoso desiderio inespresso della rapina da un miliardo, allora ci metto, ci metto un certo pathos. Esattamente. No, bello, un grande pezzo scritto da Ray, e poi tu hai scritto le parole in italiano, sì. E poi l'hai arrangiato a modo tuo, giustamente. Sì, sì, così poi appunto è una versione ancora diversa da quella del disco, che è stato molto bello, perché quel pezzo lì, per come è sul disco, è venuto fuori proprio in una giornata intera, dalla mattina alla sera, molto furiosa. Un attack sola o quasi? Quasi tutto fatto all'impronta, nel senso c'è anche molta sonorizzazione della stanza in cui registravamo, ci sono i passi, c'è la porta, c'è un cancello che Ray ha divelto, ha fatto crollare mezzo muro. Ben messo fisicamente, chi non lo conosce Ray, esatto, ben messo infatti quello che volevo, si diceva prima, è bene, si può litigare ma solo a parole, esattamente. Non è il caso del Ray. E quindi è una specie di, è un po' un radiodramma, c'è cioè una sceneggiatura, ci sono i passi della porta, della persona che entra, poi si presenta, signori, mani in alto, fa la rapina e poi se ne arriva. Ed è tutto venuto fuori in una giornata che ricordo veramente con molto piacere, molto furiosa di creatività proprio. Ogni cosa che mettevamo dentro, per cui lui metteva quello, poi io ho suonato il basso, poi lui ha messo una percussione, tutto funzionava. Ed è una versione molto particolare, molto rumorosa anche, che invece dal vivo è un po' più straight, un po' più, però potentissima. Il pezzo, tra l'altro, di apertura dei concerti. Dei concerti, sì. Da un certo senso. Ti vedremo a Padova, aprirai con questo? Sì, sì. Bene, sì. Una cosa volevo chiederti, sì, il tuo sito, lo ricordiamo, il tuo sito? Il mio sito è, c'è il sito vero e proprio, lucagemma.com, e poi c'è il sito su MySpace, che è quello che vive un po' di più, certo. Perché la differenza tra i social network e i siti è che alla fine poi i primi vivono un po' di più di maggiore interazione con gli altri, anche perché per lavorare sul sito devi avere delle capacità da webmaster che io non ho, per cui è un po' più difficile. E quindi poi c'è MySpace. Cosa ci troviamo dentro? Su MySpace ci sono un sacco di foto, ci sono i video, adesso stanno mettendo anche il video di cui ti dicevo prima, sì. Dell'educazione sentimentale, certo. E ho un piccolo blog che aggiorno con le notizie, ogni tanto ci pubblico la rassegna stampa, ci sono ovviamente il player con le canzoni, per adesso, certo. Ci sono due brani di Folkadelic, poi ci sono pezzi di album precedenti, di qualcosa che ho messo su delle raccolte, in modo che chi non mi conosce abbia modo di sentire cose un po' diverse. Il disco lo possiamo trovare in questi negozi di dischi Folkadelic? Sì, per quelli che sono rimasti, sì, no, non di dischi, quelli che sono rimasti di negozi. Ah, sì, negozi, chiaramente sì. Quindi sì, so, Fnac, Feltrinelli, ovviamente le catene un po' più grosse, più facile. Ricordi, l'etichetta eccetera. È là? Ponderosa? È Ponderosa, la distribuzione Universal. Universal, quindi a questo giro, sì, la nostra distribuzione, devo dire che in effetti sta funzionando bene. Sta funzionando bene. Si trova, insomma. Sì, si trova. Mi dicono che si trova. Bene, importantissimo questo che si trova, chiaramente. Sì, sì, sì. Benissimo, 23:36, diretta rockway.atavista.org, ci potete vedere e sentire stasera con Luca Gemma questa carrellata sulla sua musica. Tre album, ma non soltanto tre album, tante cose, oltre agli album. Bene, proprio Rosso Maltese, le altre cose che hai fatto non prettamente legate alla musica, hai fatto altre cose? Sì, ho scritto dei pezzi per altri cantanti. Ultimamente ho scritto un testo per l'album di Malika Ayan, e l'avevo fatto in passato per Fiorella Mannoia, per Patrizia Laquidara sull'album del 2007, per un grandissimo cantautore che è Bobo Rondelli, certo. Che è veramente un grandissimo artista, oltre che una persona che fa morire dal ridere, è simpaticissimo, troppo, veramente un grande artista. E quindi per lui su un album di qualche anno fa. E poi ultimamente ho raccolto, siccome ho scritto canzoni, micro canzoni per quattro edizioni di un programma di Radio 3 che si chiamava La Fabbrica di Polli, che c'è stato fino all'inverno scorso, adesso forse ci sono ancora un po' di repliche, e era una striscia quotidiana di 10 minuti serale, intorno alla mezzanotte, scritta e diretta da questi due pazzi di miei amici che sono dell'Istituto Barlumen, che sono K e Drago, molto creativi, e serviva della musica, ma la striscia era molto breve, per cui loro hanno detto... Va bene, fai della musica, ma deve essere breve, cioè non possiamo su 10 minuti, non ci può essere una canzone di 3 minuti, sì, appunto. Però vogliamo che tu usi la forma canzone, perché tanto è quello che sai fare, e però fai delle canzoni che devono durare dai 40 secondi al minuto, al massimo. E io per queste quattro edizioni ho scritto 52 micro canzoni sulla tematica nella metafora della fabbrica di polli, quindi della vita in batteria, certo. E sulla mezzanotte, perché andavi in onda a mezzanotte, e queste sono state poi arrangiate e prodotte insieme a Gaetano K, che è anche il regista della trasmissione, e ultimamente le abbiamo raccolte in due volumi che si chiamano Canzoni in batteria volume 1 e 2, e sono usciti a settembre scorso del 2009 solamente in digitale, però. Ah, però sono i primi due album che io ho fatto senza vederli fisicamente, è un po' un dolore non vederli fisicamente, però il senso era quello. Una cosa nata così per la radio in particolare, per cui ho fatto quella cosa lì per la radio. Poi nel passato ho lavorato per il teatro, per la TV, con Fabio Volo, per il cinema. Ti ricordi un pezzo di quelli micro pezzi da un minuto? Ne puoi fare qua uno così? Ti viene in mente così un momento, un flash? Aspetta, devo solo fare mente locale sugli accordi. È un ripassino, più o meno così. Questo si chiama Bird Flu, che era il periodo dell'aviaria. Ah, ok. Quindi dei polli che si ammalavano e morivano come mosche contro il muro. E quindi il pezzo è un pollo che dice: I want you, ti desidero, but maybe you have bird flu, però magari se c'hai la, c'hai la aria e quindi è difficile, per cui dice I want you, maybe you have bird flu, I want you, maybe you have bird flu. Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo poi le chiedo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi, mi dice non è aria, guai te se mi tocchi che magari c'hai la viaria. I want you, maybe you have bird flu, I want you, maybe you have bird flu. Più o meno era così. È perfetto, mica facile scrivere un pezzo di un minuto scarso, è molto difficile. Ce ne sono alcuni che hanno anche lo special, cioè hanno proprio la strofa, il ritornello e anche il bridge in mezzo, uno special che cambia ancora. Incredibile. Tutto in 50 secondi. Bellissimo. Infatti è stato molto divertente farlo. Questo è durato un po' di mesi, hai detto. Questo, no, la trasmissione è durata 4 anni. 4 anni. 4 anni. E io per ogni serie ho scritto, scritto in due blocchi, diciamo, la prima metà per i primi due anni, la seconda metà per... Un lavoro creativo al 100%. Sì, molto, molto divertente. Molto sì, divertente. Sì. Ok, divertente c'è tutto, ma soprattutto è interessante la musica di Luca Gemma. Luca, cosa suoni adesso? Ma tu prima mi hai detto che hai mandato un pezzo del disco in questo sì, periodo, no? Che a me piaceva tanto che è una bella ballata, una storiella deliziosa, un po' folcheggiante a mio parere. Sì, e allora ti faccio volentieri questa qua, che comunque è di questo disco uno dei miei pezzi favoriti. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Che il tempo sia infinito, che il cielo attenda, che il cuore sia pulito e non ti offenda, che i giorni siano buoni e quanti ne vorrai. Che il tempo faccia piano a farti male, che il mondo sia un bel posto dove restare un po', che tutto questo ed altro sia più di una bugia. E se niente sarà mai perfetto, qualche cosa gli somiglierà un po', qualche volta gli somiglierai anche tu. Che il mondo faccia un giro intero, che il tuo sia un po' più bello, è un desiderio. questo ed altro sia più di una bugia. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, l'ho scelto questo pezzo, a me piaceva particolarmente l'inciso, lo sentivo immediatamente e ho continuato a sentirlo fino a deciso, mettiamo in un solo acustico, e per un mese è andato in onda, perché mi piaceva, è una preghiera, tu hai scritto una cosa bellissima, questa è una preghiera un po' codarda e superstiziosa, per quanto ho paura che tutto finisca da un momento all'altro, ed è una preghiera per i miei figli, bellissimo secondo me. Sì, è così, è molto sentita per quello in effetti. Poi questi accordi, semplici, ma tra virgolette non sono semplici, però danno la musicalità, a me piaceva immediatamente, e poi di notte si sente bene, secondo me. Dà un certo fascino. Sì, sì, ti ringrazio. E questo pezzo è nato cioè, proprio da questa partenza qua, che è rimasta così senza le parole, questo che in pratica è il ritornello, no? Sì, esatto. L'inciso. Tu mi chiedevi prima, no, come nascono, ecco, questo pezzo in pratica... ho fatto girare per un mese sempre solo su questa frase qua, per capire dove doveva andare poi per il resto. E mi piaceva proprio il suono che veniva fuori della voce, e è stato bello che sia rimasto anche senza le parole, senza proprio le parole. Che rimanesse un suono, un colore. E questo è un po' stato il brano che è stato un po', ancora mentre stavo scrivendo e quindi quando buttavo via tante cose, è stato per tanto tempo un po' il faro delle cose, è stata la prima cosa che mi è venuta, che mi dava l'idea della direzione che io dove partire, sì, che volessi prendere, perché le cose ovviamente le avevo decise, però non sapevo ancora dove sarei andata a parare né che risultato avrei ottenuto. Quindi quando è venuto fuori questo pezzo, in particolare questo inciso così un po' soul con questo colore, sì, della voce, ho detto ok, questo può essere la cosa che devo sentire quando devo capire che strada. E per cui ci sono affezionato per diversi motivi a questo brano. Io ho pensato che era la fine di tecniche di illuminazione e l'inizio di un'altra cosa, questo pezzo. È l'ultimo flash di tecniche che si inseriva per cominciare un'altra, musicalmente un'altra strada, se mi è consentito così. Sì, sì, poi è molto verosimile, perché essendo uno dei primi pezzi nati poi di questo disco, anche come tempi, è proprio una scia. E poi significativamente è scritto Folkadelic, cioè proprio, sì, l'esatta, sì, fotografia, sì, dell'album. Sì, questo è Folkadelic. È bello questo caso, cioè la gente capisce subito, quello è così, e da quello si è sviluppato tutto. Sì, bravo, esattamente. È per quello che ha un senso importante, è un po' il cuore. È esattamente il cuore. Un'altra cosa che chiedo spesso ai musicisti, 1, 2, 3, 4, 6, sesto pezzo circa, adesso è il sesto mi pare, 2, 4, 6, 7, settimo pezzo, quasi al centro del discorso, volutamente al centro del discorso, sopra, e né sopra né sotto, là, sì, deve essere là, da là parte tutto. Sì, sì, è un significato anche quello, secondo me. Sì, sì, è vero, devo dire che non ci avevo pensato in questo frangente, però alla fine penso che sia così, perché se una cosa poi diventa il cuore centrale, pulsante di un progetto che è un disco, alla fine ha senso che stia un po' nell'esatto centro, insomma. E io mi sono fermato subito a quel, chiaramente mi piacevano anche gli altri, ma quello mi piaceva più degli altri, non so per qual motivo, sai, ognuno sceglie un pezzo, sì, dell'album, chiaramente, sì, sì, deve, sì, scegliere un pezzo, non perché, certo, gli altri sono più brutti o meno brutti, non c'entra niente assolutamente. Sì, sì, quello a cui ci si affeziona un po' di più. Ci si affeziona di più, lo senti meglio. Sì. E adesso lo sento molto meglio questa sera che hai eseguito te, bellissimo, bene, un certo, bene, fascino. Grazie. 23, 48 e 49, diretta rockway.latrevista.org, ci potete sentire e vedere stasera con Luca Gemma, questa cavalcata verso la sua musica. Michele, il mitico Michele Tosò in regia, direttamente da Milano, ma granitico sei arrivato, giacca e cravatta, perfetto, perfetto. ok, allora Luca, non so se sei stanco, ma io, siccome a me piace molto che tu canti, che tu suoni, cosa, facciamo un altro pezzo, dai, cosa dici? Sì, sì, facciamo un altro pezzo. Cosa hai deciso di fare adesso? Non lo so. Posso... Quello che vuoi, tu lo che vuoi. Quasi quasi potrei fare... Anche degli album vecchi, mica del nuovo. Farei una cover. Benissimo, facciamo la cover, dai. Farei una cover di uno che abbiamo citato. Sì, così tanto citato e nominato che a questo punto si merita di essere... Faccio la canzone che mi piace di più, di uno degli artisti che mi piacciono di più, che è Wildwood di Paul Weller. Ah, benissimo. Ti va bene? Rock Wave, l'onda del rock. High time, mid-afternoon, people flying by in a traffic's boom, knowing just what you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. Climbing, forever trying, find your way out of the wild, wild room. Now there's no justice, there's only yourself you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, people fly by in a traffic's boom, knowing just where you're blowing, getting to where you should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say. Golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I say, climb me, forever trying, find your way out of the wild, wild wood. I said you find your way out of the wild, wild wood. I said you find your way out of the wild, wild wood. Blue Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'anima blues e soul di Paul Weller è rivisuta e corretta, ricostruita da Luca Gemma, ragazzi. Quello è una cosa bellissima, secondo me. Hai preso il pezzo e l'hai ricostruito, cioè l'hai messo a tua maniera. L'anima soul, c'è niente. C'è un'anima soul Paul Weller, non c'è niente da fare. Sì, c'è. Sotto grande così ce l'ha. Ce l'ha molto grande, però tu l'hai intrapresa bene, l'hai presa bene. Si vede che ami Paul Weller, si vede che ami questo musicista straordinario, ha fatto tante cose interessanti. Sì, è tutto di molto di alto livello. Non ha mai fatto le cose così buttate all'aria. No, assolutamente. Devo dire che anche i suoi dischi in apparenza, ma anche in realtà minori, insomma, quelli sì. Che ci sono, uno che produce tanto, che fa un disco l'anno, quindi sì, tanti dischi. Anche quelli, anche nei dischi minori riesco sempre a trovare comunque sì, due o tre cose molto belle e comunque un'atmosfera generale che proprio dimostra un'attitudine verso la musica che a me piace tantissimo. Molto, molto bravo, che sì. È molto bravo, ma è anche molto uno, è anche proprio uno che così quando attacca la spina poi suona anche dal vivo, è molto, ha un'energia incredibile proprio. C'è la band che picchia tantissimo, un volume di suono pauroso, e lui, nonostante siano 35 anni che faccia suono. Dischi, che sì, suoni, si diverte ancora come un pazzo. Io quando vedo quelle cose proprio godo a mia volta come un pazzo. A me piace vedere i musicisti che si divertono tanto. Esatto. Cioè che quando suonano proprio sudano di goduria. Prima il divertimento anche da parte loro e poi il divertimento di quelli che l'ascoltano. E poi sì. E io lì sono proprio l'ascoltatore più felice del mondo in quei casi. Ok, sono 23.55, io proporrei di far sentire un pezzo che adesso non eseguirai dal vivo del disco, a tuo piacimento, se ti riposi un poco e poi facciamo il gran finale dal vivo. Ok, direi che possiamo sentire Superstelle. Che è la traccia, numero, ti ricordi? Che era, forse la 4. La 4, cosa dici Michele? Superstelle, non sono certissimo però. Adesso vediamo la 4, bravo, okay. Hai indovinato, lo conosco quella un traccia po'. Là. La vuoi spiegare un secondino che cos'è? Eh sì, allora, secondo le descrizioni canoniche, questo è un Cuban beat, cioè come atmosfera sia ritmica che di suono, molto dovuto alla chitarra col tremolo che ha fatto Ray, è proprio a questo andamento un po' da club cubano, fumoso, eccetera. Il pezzo è nato dal ritornello e dalle frasi del ritornello che dicono è un po' un'invocazione alle stelle che da anni le stelle intese anche come le stelle consultate per l'oroscopo, certo. No? Quindi proprio una cosa terra terra, le stelle che ti suggeriscono di stare calmo, di avere pazienza, cosa che devi certamente avere nella vita, succede a tutti, e quello è una strada che si può prendere, quella di imparare la pazienza, ed è una cosa che tra l'altro io esercito ovviamente e mi piace. Però poi ci sono gli scatti in avanti o indietro di corporei, di ira, che sono quelli, però ogni tanto a me viene voglia di menare le mani, questo dice il ritornello. Poi è anche una metafora, nel senso che non sono uno che andrebbe in giro a menare la gente, insomma, non ne ho né il physique du rôle, come si dice, né l'intenzione, non è quello. Però come tipo di attitudine, di aggressività, questa cosa invece mi viene fuori. Ogni tanto alla dose di pazienza mi viene istintivamente da metterci un carico di ira che non riesco a trattenere. Allora il ritornello dice proprio: care stelle, qua voi mi continuate a dire di essere paziente, però a me ogni tanto viene voglia di... questa è la sostanza. Benissimo, Superstelle allora. Rock Wave, l'onda del rock. Le mani invece dicono che qualche volta io dovrei correre. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. Purtroppo abbiamo finito, Luca. Siamo arrivati a mezzanotte, mezzanotte e tre. È passata. Fare? Dobbiamo salutare una persona, ti ricordi? Sì, Agostino. Sì, Miria di Mantova. Ci sente da Mantova. Grazie, Miria. Grazie mille. Hai sentito questa cavalcata con la musica di Luca Gemme? Non è ancora finita, poi c'era il finale, fra qualche secondo, assolutamente dal vivo. Grazie, Luca. Ricordiamo l'album, come si chiama il nuovo? L'album si chiama Folkadelic. Si può trovare nei negozi dischi, quelli presenti ancora. Quelli ancora presenti, si trova però anche su iTunes e le altre piattaforme digitali comuni. Compratelo, un bel disco, ragazzi. Sì, decisamente sì. Un buon disco. È un bel disco che si può comprare anche ai miei concerti. Certamente. Quando sono dal vivo, perché ne ho. Per Acqua a Padova fa poco, quindi. Il 30 a Padova al Fish Market. Sì. Bene, questo è stata una bellissima esperienza. Anche per me, io ringrazio te per questo bis che mi hai concesso. È la seconda volta che vengo qua. Sarà con Tris per il prossimo anno. Ci sarà volentieri anche con Tris. Grazie a voi di avermi ospitato. È stata una bella chiacchierata musicale di quelle che non capitano spesso. Grazie a te, grazie a tutto il nostro staff, in primis chiaramente al nostro mitico regista, yes, Michele Tosò. Dico gli appuntamenti per la prossima settimana. Lunedì avremo un grande concerto di Willie Nile, verrà a suonare Willie Nile lunedì sera dalle 22.30 assieme a Stefano Dainese. Martedì avremo un appuntamento telefonico con Solieri, chitarrista di Vasco Rossi. E mercoledì avremo un gruppo un po' strano di ragazzi di Brescia, musica un po' particolare ma interessante. Come si chiamano? Non me li ricordo, francamente. Non me li ricordo. Vedete sul nostro sito, c'è scritto tutto, in ogni caso. Grazie Luca, e con cosa terminiamo stasera? Ma mezzanotte ormai. Sì, questa notte. Passiamo la mezzanotte con un pezzo del visto che di Folkadelic abbiamo suonato e sentito quasi tutto. Tutto no, però quasi. Però lasciamo qualche sorpresa a chi dovrà a chi comprare. E quindi suonerei un pezzo che invece era sul mio primo disco, che era Saluti da Venus, e il pezzo è Verresti a sopravvivere con me. Perfetto, grazie di tutto e buonanotte e appuntamento alla prossima settimana, da lunedì a mercoledì. Grazie. Grazie Agostino. Van Cleef Continental, mi sono sbagliato, non li ho ricordati, adesso li ricordo. Van Cleef Continental, mercoledì prossimo, ok, con loro. Rock Wave, l'onda del rock. Sono nato come un uragano nella terza decade di ottobre, i pianeti messi in modo strano a complicarmi un po' la via. Poi son cresciuto in mezzo alle invenzioni di quest'era tecnologica, io poca logica, solo emozioni. Questo è quanto e così sia, così è la vita, questa è la mia. Io vorrei un po' d'acqua fresca, un po' di sole sulla testa, 100.000 baci almeno quando è la mia festa. Non è niente di speciale, ma ti chiedo appuntamento. Vieni al ponte degli amanti, che ti dico cosa sento. Non verresti a sopravvivere con me in un posto bellissimo se c'è. Poi la vita è quello che ti accade mentre progettavi il tuo futuro. Questa frase così bella è, giuro, che difatti non è mia, è di John Lennon. Ma io prometto acqua fresca nel bicchiere, le mie mani sul tuo sedere, 100.000 baci almeno quando è la tua festa. Non è niente di speciale, ma ti chiedo appuntamento. Vieni al ponte degli amanti, che ti dico cosa ho in mente. Non verresti a sopravvivere con me in un posto bellissimo se c'è. Non verresti a sopravvivere con me in un posto bellissimo se c'è. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock.